Io credo che se vinciamo, intanto, se vinciamo le primarie non si spacca tutto, se vinciamo le primarie si apre una stagione nuova nel centro-sinistra, come succede in tutto il mondo quando un nuovo gruppo dirigente prende il posto di quello vecchio. E se vince le primarie, è vero che questo giochino sul governo, ieri c'è stato questo giallo su Bersani e farei Renzi ministro, poi dopo ha dovuto smentire, no, sono tutti utili, non mi dica che non è tempo di fare il giochino del governo, lei lo farebbe il ministro di Bersani? No. No, nel modo più assoluto, perché ho sempre perché? Detto... Perché? Cioè, sembra quasi un no, una preclusione... Innanzitutto, partiamo dal presupposto. Io stima di Pierluigi Bersani, combatto una battaglia leale nei suoi... Cioè, non tanto contro di lui, ma una battaglia di rinnovamento e di cambiamento del centro-sinistra. Io molto banalmente penso che le persone che ci hanno portato in questa situazione, quelli che da 20 anni governano il partito, non possono essere quelli che ci tirano fuori dal caos in cui siamo. Quindi... La mia è una posizione più o meno discutibile, ma leale, chiara, trasparente. Sì. Questo non impone, non significa che io non abbia stima per Bersani. Però, cos'è accaduto? Intanto, nel caso in cui io perda le primarie, voglio dire con molta franchezza che non voglio essere come tutti gli altri. Se lei fa l'elenco degli ultimi 7 anni, vedrà che alle primarie del centro-sinistra chi ha perso ha sempre chiesto una sorta di premio di consolazione. Lei non vuole questo. Ma no, basta, si fa le battaglie per le idee, per cui personalmente se perdo le primarie io rimango a fare il sindaco finché i fiorentini mi vorranno, non vado in Parlamento, non vado a fare il ministro, dopodiché le dico con franchezza, se vinco le primarie vorrei lo stesso atteggiamento da parte degli altri. Se perdo, nessun sgabello, mi pare che sia un segnale. Neanche una poltrona che Bersani ha già detto lascerà l'anno prossimo, cioè quella da segretario del Partito Democratico, a lei piacerebbe poter pensare di diventare segretario di quel partito? Ci sono persone molto più brave di me per farlo, io credo di essere quello meno adatto. Meno adatto perché meno amato dal partito forse? Ma forse anche perché non è nelle mie corde, a me piace fare le cose, vedere concretamente i risultati, io sono un po' allergico. Cioè, il segretario non fa niente. Il segretario però... va anche capito che cos'è il Partito Democratico e cosa sono i partiti oggi. 30 anni fa i partiti si riunivano, facevano cadere i governi. Io parto da un presupposto veramente di una politica all'americana in cui il cittadino con le primarie si sceglie il candidato, il cittadino vota il proprio leader, e allora non c'è bisogno di quei fumosi e fumanti tavoli di coalizioni dove i segretari di partito danno la linea. Ecco, io sogno un governo dove il leader del governo non è che deve chiamare il segretario di partito per sapere che cosa deve fare. Quando l'Italia arriverà a quel livello là, sarà finalmente un paese come tutti gli altri in Occidente. Un caffè con D'Alema lo berrebbe? Sì. Magari lo preparo io, ma sì. Ha paura che gliela avveleni. No, questo lo dice lei perché è un maligno, è un malevolo. Dico soltanto che quando il presidente D'Alema, cui va la mia stima, io guardi, non ho mai fatto una polemica con D'Alema, ho soltanto detto che per me la generazione di D'Alema... Lo prepara lei? Preparo io perché D'Alema ha detto una frase che mi ha molto colpito. È il presidente della Commissione Servizi Segreti che ha detto quel ragazzo si farà male. Scusi, vede che io ci penso male. Lei è un maligno malevolo. Lo preparo io per un atto di rispetto per l'anzianità. Ah, va bene. Ma come maligno lei, guardi. No, per carità. E con Rosy Bindi? Sì. No, l'ho già preso con D'Alema, poi due caffè divento nervoso.